Italia in controluce. Oggi si ricorda la strage di Capaci. Il 23 maggio del 1992 venne ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e la scorta. Qualche mese dopo, il 19 luglio, l'omicidio di Paolo Borsellino. Sentiamo la registrazione del live dello spettacolo teatrale Il Paese della Vergogna di Daniele Biacchessi, interpretato davanti agli studenti. Ci sono occhi che osservano dall'alto della collina. E ci sono occhi minacciosi, pieni di odio, e altri occhi che hanno il colore del tritolo, e incrociano occhi buoni di uomini e di donne, che sono dentro un'automobile che sta correndo dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino, a Roma. Sabato 23 maggio 1992. Un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Morvillo. Destinazione Palermo, aeroporto di Punta Raisi. Quando arriva all'aeroporto, il giudice Falcone è atteso da 6 agenti con le loro auto. Sono 3 Fiat Croma, blindate. Falcone sceglie una di queste macchine. Lui è al volante e la moglie gli siede accanto. Così insieme imboccano la A29. La campagna siciliana sfila ai lati con tutti i suoi colori di marcio. Il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare a Palermo. C'è odore di mare. Strada, una Lancia Delta si mette in moto. È quella di Gioacchino La Battera. Palermo dista soltanto 7 chilometri. E le auto si stanno lentamente avvicinando al vincolo Capaci, Isola delle Femmine. Lassù, dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini seguono la scena. Scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage è un segnale in codice, una telefonata sbagliata, entrata nella storia di Capaci. E allora, sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che vuole parallela a Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un certo punto prefissato, si ferma ed aspetta. I mafiosi Ferrante e Salvatore raggiungono l'aeroporto. Gioè e Droia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e con battaglia sulle colline di Capaci. A quel punto, dall'alto, qualcuno prende un binocolo. Ecco, adesso vi vedo proprio tutti. Dall'alto di una collina, con un binocolo, si possono vedere anche minuscoli particolari. Un binocolo e una collina. La Barbera riparte e segue le 3 Fiat Croma a distanza. E alle 17:49 chiama Gioè sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. Sono le 17:56 minuti e 48 secondi. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. Ehi uomo, lo sai che cosa si può fare con un telecomando a distanza? Telecomando a distanza che fa muovere gli ingranaggi dell'esplosivo. Può ridurre tutti voi e tutti voi a piccoli minuscoli pezzettini. Nella prima auto catapultata, a 5 metri, gli agenti di scorta vogliono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Giovanni Falcone e Francesca Morbillo moriranno all'ospedale di Palermo un'ora più tardi. Così si moriva a Palermo, soli, senza la protezione dello Stato che si serve, senza neanche il tempo di vivere, senza un saluto, senza aver chiuso l'ultima pagina di un'inchiesta, soli e minacciati, lavorando e basta, soli, semplicemente soli. Scriveva Giovanni Falcone, un uomo, fa quello che è suo dovere fare, quello che siano le conseguenze personali, quelle che siano gli ostacoli, i pericoli e le pressioni. Questa è la base di tutta la moralità umana, moralità umana. Gli uomini passano e le idee restano. Restano tutte le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, di altri uomini. Credo dovremmo ancora per lungo tempo confrontarci con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Per lungo tempo, ma non per l'eternità. Perché la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà dunque una sua fine. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia e a Milano la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Questa, ragazzi, è la nostra memoria, quella che non deve mai andare dispersa. Ecco perché sono contento di averla raccontata a voi che siete più giovani. Per non dimenticare. E Italia in controluce torna domani mattina alle 6:30.